La quarta Mishnah del quinto capitolo di Yomah. A che punto stiamo nel servizio del Kohen Gadol all'interno del Beit HaMikdash? Prima abbiamo visto che il Kohen ha spruzzato le sette, una volta sotto e sette volte sopra seconda, prima, seconda, prima, terza. nel Beit HaMikdash, all'interno del Kodesh HaKodashim, all'interno della parte più sacra del Beit HaMikdash. E questo riguardava il toro del Khatat, del sacrificio espiatorio di cui abbiamo parlato la scorsa volta. Quando lui adesso esce dall'Echal, la Mishnah che adesso studiamo dice: Heviu lo et ha'sa'ir, gli portarono il capretto. Quale capretto? Dei due capretti che abbiamo detto l'altra volta che si è fatta la distinzione. sì, che uno andava all'Azazel e uno andava come Corban, l'Hashem. Allora qui c'è il Corban di questo capretto. Quindi esce fuori dall'Echal, esce fuori dal Kodesh HaKodashim e dall'Echal, entra nella sala che si chiama la Azara. E lì gli si porta appunto quel capretto sul quale è salita la sorte l'Hashem, cioè che sia offerto nel Beit HaMikdash come sacrificio. Shechato, gli fa la Shechita, e Kibel Bamizrak et Damo, e riceve il sangue della Shechita in quel recipiente di cui abbiamo parlato, e subito rientra di nuovo nel Kodesh HaKodashim. Nichnas, entra, la Makom she Nichnas, al luogo in cui era già entrato prima, cioè il Kodesh HaKodashim. Ve Amad, e si pone il Kohen Gadol, va Makom she Amad, nel esatto luogo in cui si era posto prima, che abbiamo spiegato, nel centro del Kodesh HaKodashim, tra le due stanghe con le quali si teneva l'Aron quando si doveva trasportare. Ve Hizami Menu, e di nuovo spruzza da questo sangue del capretto, della Shechita del capretto. Achat lemala vesheva lemata, di nuovo uno verso l'alto e sette verso il basso. Velo hayamit kaven lehazot, e di nuovo, come abbiamo detto nell'altra Mishnah precedente, non faceva con precisione mitkaven, come abbiamo detto mechuvan, no? Non era una cosa, una scienza precisa che doveva spruzzare esattamente. Lo lemala ve lo lemata, né verso l'alto né verso il basso, e la kematzlif, solamente come abbiamo spiegato nella Mishnah precedente, come uno spruzzare generale verso quella direzione, ma senza troppa precisione nell'indicare diciamo, questo spruzzo. Vekacha yamoneh, e così contava per non sbagliare il numero delle volte che doveva spruzzare, e diceva achat, una, che è quella che va unica verso l'alto. Poi diceva achat ve achat, una e una verso il basso, una e una verso ushtaim, una è la seconda, una è la terza, come abbiamo spiegato nel Dam HaPar riguardo il sangue del toro. E dopodiché Yatza, dopodiché esce fuori dal Kodesh HaKodashim di nuovo, Vinichò, e prende quel recipiente che non ha fondo da essere poggiato, quindi lo posava al Kana Shenisha Yabaechal, su una seconda base, come un buco nel quale si poteva posare come base. Questo ce n'erano due, uno per il primo che era dal sangue del toro e uno per il secondo che era il sangue del capro. Rabbi Yehuda Omer, invece, secondo Rabbi Yehuda, non c'erano due basi, lo haya e sham ela kan echad, non c'era che una base sola. Secondo lui, un Kohen prendeva via il sangue del capro in modo tale che la base rimaneva priva di un recipiente, in modo tale che quando lui usciva con la sangue, scusa, prendeva via il sangue del toro che è precedente, in modo tale che il Kohen Gadol, quando riesce la seconda volta, può posare lì subito il recipiente del secondo corbancio e del capro. Quindi secondo era una sola base per tenere. Invece, secondo l'opinione del Tanakama, del primo maestro della Mishnah, ce n'erano due predisposte per le due korbanot. No, subito fuori nel Kodesh, bravo, nell'Echal. Infatti dice Yatza Veinicho, esce dal Kodesh HaKodeshim e lo posa. Al Kana Shenish e Aya, che si trovava dove? Dice la Mishnah chiaramente, Bahechal. Bahechal vuol dire nel Kodesh, all'interno della struttura ma nella parte più esterna, non nel Kodesh HaKodeshim. Sì, che nel Beit HaMikdash era una struttura, non una tenda. Apriva la tenda e lì entrava lui da solo. Questo era nel Kodesh HaKodashim. Sì. Uscendo da lì, sì, esatto. Posava il sangue. La tenda che separava. Nel primo Beit HaMikdash c'era un muro e nel secondo c'erano le due tende, come vi ricordate. Esatto. Dopodiché, e appunto secondo Rabbi Yehuda ce n'era solo uno, quindi Natal Damapar toglieva il sangue precedente del toro e posava Veiniach Damaseir, il sangue che aveva in mano adesso, quello del capro, Veisami meno alla paroche Cekenege Daron mi Bachutz, e spruzzava di nuovo il sangue del toro, quindi il primo Korban, sulla parte esterna di quella tenda, quindi dal di fuori del Kodesh HaKodashim, di nuovo doveva spruzzare verso la tenda, che dietro la tenda c'era l'Aron, chiaramente il Kodesh HaKodashim, di nuovo Achat Lemala Vesheva Lemata, di nuovo una verso l'alto e sette verso il basso, e di nuovo Velo Ayamit Kaven, di nuovo non era esatto, preciso in quella, in quello spruzzare, Lo Lemala Velo Lemata, e la Kematzlif, e Kachai Amone, così contava, Achat, una verso l'alto, Achat ve Achat, una e una verso il basso, Achat Ushtaim, una e due verso il basso, Achat ve Shalosh, Achat ve Arba, Achat ve Chamesh, Achat ve Shesh, Achat ve Sheva, finché arriva a sette. Da fuori del Kodesh HaKodashim, dall'interno dell'Echal. Adesso cambia di nuovo il contenitore, Natal Dama Seir, prende quello del capro, Viniach Dama Pare, lascia quello e posa quello del toro. Quindi non era in realtà, scusate, un altro Cohen che prendeva il sangue, era lui sempre che faceva questo cambio di sangue, di contenitore. Visami meno alla paroche cekneged Aron mi bachutz, e anche qui di nuovo, quindi lo spruzzare avveniva due volte per entrambe le korbanot. Una volta all'interno del Kodesh HaKodashim e una volta all'esterno del Kodesh HaKodashim verso il parochet, verso la tenda che separava tra il Kodesh e il Kodesh HaKodashim. E di nuovo dice la Mishnah la stessa cosa. Velo hayam mitkaven le scusa, veisami menu, e spruzzava da di nuovo il secondo korban, quello del capretto, alla parochet cekneged Aron mi bachutz, all'esterno del parochet, achat lemala vesheva lemata, uno sopra, sette sotto, velo hayam mitkaven le azot lo lemala velo lemata, e la kematzlif, di nuovo non era preciso nel spruzzare, eccetera, e di nuovo come contava, vekach hayamone, achat, achat ve achat, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. ופה היא עירה דם הפר לתוך דם הסעיר. דופו כפתו כסת דוי וולטר ספרוצרה, ורסבה אל סנגוי דל טורו, על אינטרנו דל קונטניטורי דל סנגוי דל קפרו, ונתן את המלא ברקן, המטבע לקונטניטורי פיינו, על אינטרנו דל קונטניטורי וווטו, כאילו אונו נלטרו, כמו דוי ביקרי אונו סופרו, אונו דנטרו לאלטרו. Sangue. Ok? Il contenitore erano due. Cioè, in altre parole, quello che faceva, mischiava, versava prima il sangue del capro, abbiamo detto, scusate, Damapar, quello del toro, all'interno di quello del toro, e poi Natan et Amaleh Barekan, non è come ho spiegato che ha messo un bicchiere nell'altro, ha riversato quello pieno in quello vuoto, in modo tale che si mischia bene, perché la Torah dice velakach mi dama paru mi dama sair, che lui successivamente prende dal sangue che è mischiato insieme, quindi il mischia. Dunque è uno, adesso diventa uno. Le due quantità di sangue rimaste. Sì. E poi cosa fa con questo? Nella prossima Mishnah, viyatza e la misbea hasher lifnei Hashem. Esce verso, quindi torna ancora un po' verso l'esterno, verso il Mizbeach, quale Mizbeach? La Torah, questa è una citazione dalla Torah. Viazzai la Mizbeach asher lifnei Hashem, esce verso il Mizbeach che è dinanzi ad Hashem, cioè si intende dire il piccolo altare del Ktoret, dell'incenso, che era dinanzi ad Hashem, vuol dire davanti al Kodesh HaKodashim. Fuori ovviamente, ma davanti. Ze Mizbeach HaZahav, la Mishnah interpreta il versetto dicendo questo è inteso qui il Mizbeach HaZahav, cioè il altare d'oro, cioè che quell'altare piccolo d'oro che sul quale si faceva il Ketoret. E cosa faceva? Hitchil mechatev yored, faceva, spruzzava da quel sangue mischiato su ogni angolo del Mizbeach. Ok? E viyored, cioè andava scendendo perché lo faceva dall'alto e il sangue colava un po' verso il basso. Sì. Mechate, il termine mechate è come dire metaher, purificare, rendere puro. È legato quindi a espiare, no? Meichanu matchil, da quale degli angoli, delle corna letteralmente, perché su ogni angolo c'era come una come si dice? Un angolo, Un angolo proprio sporgente. Sì, che sporgeva però verso l'alto. Verso l'alto, come Keren, come un corno, diciamo. Un rialzo. C'era anche nell'altare grande questo, quattro rialzi agli angoli, come un rialzo di una fortezza, no? Come si dice, una cosa quadrata, come una torre, no? Allora, da quale angolo iniziava? La Mishnah dice, Mikeren Mizrachit Tzfonit, dall'angolo nord-est, Mizrach è est, Tzafon è nord, quindi nord-est, e poi proseguiva sempre verso nord, cioè nord-ovest, e poi sud-ovest, poi sud-est, Dromit Mizrachit. Makom shu matchil b'chatat al Mizbeach HaChitzon, che quello, il sud-est, era l'angolo dove invece iniziava a girare nel Mizbeach HaChitzon, cioè nell'altare esterno, quello grande dove si facevano le korbanot. Lì iniziava da questo in cui finiva qua, cioè quello del sud-est. Misham Hayagomer, lì concludeva le quattro spruzzate, diciamo, al Mizbeach HaPenimi, su quello interno, e dallo stesso, quello stesso angolo invece iniziava nel Mizbeach esterno. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer invece dice, Bimkomo haya omedo mechate. Il Kohen Gadol non è che girava intorno al piccolo Mizbeach, secondo lui, bensì dal suo luogo dove stava, veniva verso Mizbeach, rimaneva in un luogo, che era appunto l'angolo nord-est, che abbiamo detto il primo angolo, e da lì spruzzava verso i quattro angoli. Non è che girava intorno al Mizbeach, secondo lui. E poi il Mizbeach è una amà per una amà, cioè meno di mezzo metro quadro la grandezza del Mizbeach, la dimensione. Ve'alculana yonotenet adam ilemata lemala, e su tutti gli angoli, su tutte le sporgenze, metteva il sangue dall'alto verso il basso, cioè con il dito faceva così e il sangue scendeva. Chutz Mizu, a parte questa qui che era davanti a lui, questa del Mizrachit Zvonit, nord-est, la prima, She'alea yanoten milemala lemata. Scusate, ho letto. Milemata lemala, tutte le altre le dava dal basso verso l'alto. Dal basso verso l'alto, Rabbi Eliezer dice il contrario di quello che dicevamo, meno che questo primo angolo che nord-est, che faceva dall'alto verso il basso. Perché? Perché se questo angolo dove lui era, si era posto, se lui facesse anche lì dal basso verso l'alto, il sangue avrebbe sporcato le sue vesti, perché dal basso verso l'alto poi non controlli bene come scende. Allora lì lo faceva dall'alto verso il basso in modo tale da controllare bene la discesa, invece le altre le faceva dal basso verso l'alto, come per spruzzare, diciamo. Questo abbiamo spiegato secondo Rashi. Ci sono altre interpretazioni di questa Mishnah. Scusa. Sì? Dicevi prima che la sequenza stando fermo era nord-est, nord-ovest. La sequenza è uguale secondo tutte. Però, ecco, invece da sud-est dicevi che era l'ultima della sequenza quando era l'altare piccolo d'oro. Sì. Era in effetti il punto di partenza, di direzione, dicevi? Nell'altro altare esterno iniziava dal sud-est. Nell'altro altare esterno quello grande.